Radio 24 Reportage. Muoversi, spostarsi, trasportare persone e merci in un mondo che accorcia e mischia le distanze, al di là di qualsiasi rotta si voglia intraprendere, esiste una direzione obbligata. La mobilità e quindi la logistica devono puntare alla sostenibilità. Non significa solo rispettare l'ambiente, ma anche rendere le varie modalità di movimento socialmente compatibili, quindi in grado di garantire le pari opportunità alle persone e ai territori, superando le marginalizzazioni e contemporaneamente innalzando gli standard di sicurezza. Vale per i mezzi, vale per le infrastrutture. In questa direzione obbligata il progresso gioca un ruolo determinante e non potrebbe andare diversamente, ma ad ispirare e applicare le opportunità offerte dalla tecnologia non può che esserci un'idea, un'intuizione, la voglia di sperimentare. Per stimolare le buone pratiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme a Italia Camp, ha promosso un concorso. Una giuria ha selezionato i 7 progetti ritenuti più originali che sono stati presentati alla ex manifattura dei tabacchi di Cagliari in una mostra allestita in occasione del G7 dei ministri dei trasporti, un summit dedicato appunto alla mobilità sostenibile, chiave di volta per il futuro. In questo reportage ecco alcuni dei progetti presentati e visto che il futuro è adesso, per indicarci la strada da percorrere ci siamo rivolti a Watson. Interagisce come una persona e domani magari in una stazione o in un altro luogo potrebbe fornirci qualche informazione, ma non è una persona. Di cosa si parla qui oggi? I paesi membri del G7 hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro per approfondire le tematiche di sostenibilità sociale nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, cercando soluzioni che permettano integrazione sociale e culturale per ogni utente. E cioè? Questo significa che vengono revisitati i temi di accessibilità, per quanto riguarda i collegamenti e opportunità di trasferimento e ricollocazione, l'accesso a infrastrutture per utenti diversamente abili, i servizi di trasporto accessibili a fasce di reddito meno abbienti, ma anche per la sicurezza di segmenti sociali più vulnerabili come donne, minori e rifugiati. Come stai? Io sto sempre alla grande, grazie. Tu come stai? Bene, grazie, ciao! Ciao! Come ci ha spiegato Watson, i punti cardinali della strada da seguire sono segnati in questa scia. Ecco alcuni progetti di cui parlavo prima. Il primo si chiama Mario Way, dal nome del suo inventore, Mario Vigentini, educatore sociale che per 20 anni si è occupato di disabilità. È un dispositivo, potremmo dire una carrozzella, che può essere guidata senza mani e che ha un'altezza che si regola in base a quella degli interlocutori, valicando anche emotivamente una distanza relazionale. Sentiamo l'inventore. Ci sono tutta una serie di vantaggi che sono legati a questo semplice posizionamento ergonomico verticalizzato, che sono i vantaggi di tipo posturali e biologici. Le persone che vivono 8-10 ore seduti sulla propria carrozzina hanno delle patologie che sono connesse al semplice fatto di essere seduti. Tutto questo è parzialmente risolto e comunque viene risolto da Mario Way perché c'è una postura che è in grado di aprire per esempio tutti gli angoli delle ossa, è in grado per esempio, come sto facendo adesso, di caricare il femore, questo va a risolvere il problema dell'assottigliamento delle ossa, e c'è un sgravio, diciamo, del peso dal coccige su anche le parti della tibia. Banalmente questo mi consente anche di accedere a tutto ciò che si trova in alto, per cui io all'interno di casa mia non devo abbassare i mobili di casa, ma mi alzo io fondamentalmente. E ultima cosa, ma è stata la prima da cui siamo partiti, è la relazione simmetrica, per cui voi, proprio per una caratteristica che ha l'occhio, no? Cioè quello di avere uno sguardo attraverso un cono, non vedete più la carrozzina come prima cosa e quindi non si vede più la disabilità della persona, ma come prima cosa si vede finalmente la persona. Questo significa dare l'opportunità a tutti di instaurare una relazione senza pregiudizi e senza preconcetti. E ora sui binari, su binari puliti, virtuosi, questa startup si chiama Green Rail. Sostanzialmente si tratta di una ferrovia ecologica, le traversine o traverse sono infatti realizzate con materiali riciclati, pneumatici fuori uso e plastica. Ci spiega tutto Cristiano San Marco e come sentiremo l'idea è già applicata in alcune parti del mondo. Il vantaggio di questa startup è dal fatto che loro utilizzano plastica e utilizzano copertoni. e lo smaltiscono questi materiali e producono un rivestimento per il calcestruzzo per realizzare delle nuove traversine. Loro ogni chilometro di rete ferroviaria riescono a riciclare il 35 tonnellate di materiale di scarto, e l'utilizzo della gomma ha un vantaggio perché riduce del 30% il costo di manutenzione del binario stesso. In più, sopra queste traversine è montato un pannello fotovoltaico che dà la possibilità, quando il treno non passa, di poter intrappolare i raggi del sole e produrre energia da reimmettere all'interno del sistema ferroviario. Diciamo, Green Rail è già forte nel mercato internazionale, soprattutto nell'Asia e in Indonesia. Quindi è già operativo? Operativo, all'estero è già operativo, sì. Da noi? Da noi questo bisogna capirlo. C'è una strada lungo la quale i bambini e i ragazzi si incamminano per 9 mesi all'anno, è quella che li porta a scuola. C'è chi va sull'auto dei genitori, chi in bus e chi anche a piedi. Anzi, per stimolare laddove possibile la più naturale forma di mobilità, nel 2004 il Comune di Trento ha avviato il progetto Piedibus, cioè cortei di alunni in marcia guidati da accompagnatori. Ora esiste una versione smart del progetto adottata dagli istituti comprensivi di Trento 6 e 7. A renderla tale è stato il progetto Climb della Fondazione Kessler. Hanno avuto l'idea di mettere in sicurezza il tragitto dei ragazzi dal momento in cui si spostano dalla propria abitazione per raggiungere appunto la scuola o per poter fare dei percorsi in piena sicurezza. Quindi andare in palestra. Dei percorsi virtuosi, cioè quei percorsi in cui effettivamente il ragazzo può aver bisogno di aiuto o di, diciamo, sicuramente qualcuno che guardi, no, quello che effettivamente sta accadendo. Ecco, questa soluzione dà la possibilità di monitorare il suo tragitto e al tempo stesso di acquisire le informazioni giuste affinché tutto poi corrisponda a quello che è il percorso previsto. E l'evoluzione del piedibus, quindi diciamo vengono accompagnati ma al tempo stesso sostenuti dalla tecnologia. Ecco, la tecnologia come si sviluppa in questo senso? È un piccolo dispositivo, e quindi potremmo anche identificarlo come un dispositivo IoT, quindi di Internet of Things, proprio perché è un oggetto che viene a tutti quanti gli effetti indossato, barra inserito, no, all'interno dello zaino del ragazzo, e dà la possibilità di poter avere dei sensori che diciamo, ricevono e al tempo stesso emettono dei dati che vengono accumulati e registrati poi dall'altro dispositivo, che è quello che è a casa dei genitori, per poter effettivamente capire e comprendere il percorso che il ragazzo ha sviluppato. È attivo? È già attivo ed è diciamo un'idea ad altissimo impatto sociale, proprio perché riesce a mettere insieme vari aspetti, non solo quello tecnologico ma appunto quello della sicurezza nei confronti delle famiglie, ma anche quello della sicurezza nei confronti di una città, di una comunità, di una scuola, che effettivamente in questo caso può avere anche maggiore serenità nella gestione di quelli che sono gli spostamenti. E probabilmente, diciamo, una soluzione che non si contraddistingue solo per quello che è il valore economico della soluzione in sé per sé, ma ancor di più di quello che è l'impatto generato. Quindi il vero ritorno di questo investimento probabilmente è una qualità della vita per i genitori, per i ragazzi, per i bambini. Esattamente. Tra i progetti premiati dalla giuria del concorso promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per segnalare le soluzioni più innovative ed efficaci a favore di forme di mobilità e integrazione nel segno della sostenibilità, non poteva mancare un'auto chiaramente molto speciale. Si chiama OS Vehicle ed è speciale perché è un'auto elettrica fai da te, nel senso che la startup fornisce a chiunque lo voglia acquistare un kit di montaggio da assemblare autonomamente utilizzando le istruzioni fornite, i pezzi contenuti appunto nel kit, un po' come si fa con un modellino o con un mobile. Gabriella Barone idealmente ci porta a fare un giro su questa auto. Si può trattare di un veicolo monoposto, 2 posti, 4 posti, quindi qualunque veicolo per qualunque utilizzo possiamo immaginare. Non si pone assolutamente in contrapposizione con quello che è il mercato dell'automotive tradizionale, ma piuttosto va a creare un nuovo mercato, perché data l'elevato grado di flessibilità e velocità anche, diciamo, di assemblaggio, si assembla solo in un'ora e di messa in produzione, addirittura permette questo sistema di ridurre di un sesto i normali tempi, diciamo, dalla progettazione alla nascita, diciamo, di una vettura. chiusura del mondo automotive tradizionale. Permette di allungare molto il ciclo di vita della singola vettura, perché ogni componente è del tutto sostituibile. Una vettura così ha un costo oggi tra i 13.000 e i $19.000. È un veicolo elettrico, velocità di 130 e un'autonomia di 120 km. Diciamo, di recente hanno lanciato anche un nuovo progetto per un veicolo autonomo. È italiano, è progettato e costruito in Italia. E i veicoli sono omologati, quindi possono ovviamente tranquillamente circolare. Ecco un'altra idea, un altro progetto, un'altra applicazione. Si chiama Carpooling Unime. Arriva dall'Università di Messina e permette agli studenti di contattarsi a vicenda allo scopo di condividere mezzi di trasporto privati per gli spostamenti. Questa forma di condivisione prevede un piccolo rimborso in moneta complementare, Unime Coin. Sentiamo meglio di che cosa si tratta da Roberto Bianca. È un'app creata dall'Università di Messina, dove convertono, o meglio si possono acquistare da parte dei studenti universitari dei coin, delle monete virtuali che si chiamano Unime. Il costo di un euro corrisponde a un costo di questo coin virtuale, però in realtà l'euro reale verrà poi rispeso da parte dell'università con ovviamente un'assemblea che deciderà, che è formata anche dagli stessi studenti, decideranno come spendere dal punto di vista sociale, per le infrastrutture dell'università, ma anche per la città di Messina, questi soldi reali che sono stati comprati. Che cosa ci guadagnano gli studenti comprando questi coin, queste monete virtuali? Ci vengono convertiti con dei servizi gratuiti forniti appunto ai titolari di questo denaro virtuale, per il parcheggio gratuito, per servizi e infrastrutture nella città di Messina. Quindi hanno un ritorno con sconti, con agevolazioni appunto dal punto di vista della mobilità, delle infrastrutture e del trasporto. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.